Un saluto a tutti da Piero Ottaviano. Dobbiamo trattare ora un argomento piccolo, se vogliamo, ma estremamente importante, e cioè l'esistenza storica di Gesù di Nazaret. Vogliamo presentare il cristianesimo nei suoi fondamenti? Ora, alle origini del cristianesimo ci sta un uomo, sottolineo, di nome Gesù di Nazaret, che i cristiani, cioè i suoi seguaci, ritengono il Cristo, uomo vissuto in Palestina nel primo secolo d.C. Dobbiamo appunto documentare questo, ma prima vorrei precisare il significato della parola Cristo. Cristo non è il cognome di Gesù di Nazaret. Cristo è un soprannome che gli han dato, ma è un soprannome che deriva dal greco Christos, che vuol dire unto con olio. Ma questa parola greca Christos è già la traduzione di una parola ebraica che suona Mashiach e di una parola aramaica che suona Meshiach, da cui sentite la parola Messia. Ora, stranamente, dare a Gesù il titolo di unto può anche meravigliare, ma per capire il significato esatto bisogna rifarsi alla tradizione ebraica. Presso gli ebrei, cultura essenzialmente formata da contadini e da pastori, le tre coltivazioni più importanti erano l'ulivo, la vite e il fico. E quando queste tre piante producevano bene, l'ebreo diceva: è Dio che ci premia. Quando producevano male, diceva: è Dio che ci punisce per i nostri peccati. Per cui l'olio, il vino e i fichi diventano tre simboli della benevolenza di Dio. In particolare, l'olio aveva una caratteristica. Una macchia d'olio su un vestito non si smacchia più. Noi oggi sì, la smacchiamo con la benzina, la trielina, ma gli antichi non conoscevano i solventi dell'olio, perciò una macchia d'olio sul vestito te la tieni e è finita. E allora loro dicevano: l'olio impregna talmente il vestito che non può più essere tolto. Inoltre l'olio ha un'altra caratteristica: è la base di tutti i profumi. Per cui per gli ebrei prendere un vaso d'olio pieno d'olio, versarlo sul capo di una persona, voleva significare la benevolenza di Dio simboleggiata in quest'olio impregna talmente la persona su cui è versato che questa persona diventa segno stabile, indelebile della benevolenza di Dio, cioè diventa portavoce di Dio. Allora, quella parola che originariamente voleva dire unto ha cambiato di significato e col passare del tempo è diventata, ha significato portavoce di Dio. Allora, dire Gesù Cristo è dire Gesù è il portavoce di Dio. Attenzione allora, quando parliamo di Gesù, distinguiamo tra il Gesù della storia, di cui stiamo per parlare, e il Cristo della fede. Dire che Gesù è il Cristo, cioè il portavoce di Dio, è un atto di fede, ma questo dovremo concluderlo molto dopo, quando avremo analizzato bene i fondamenti del cristianesimo. Allora, noi adesso intendiamo parlare di Gesù di Nazaret e diciamo che i suoi discepoli l'hanno ritenuto il Cristo. Ma questo Gesù di Nazaret è veramente esistito? per rispondere a questa domanda, noi dobbiamo rifarci ai documenti. E nella storia abbiamo molti documenti che parlano di Gesù di Nazareth. Ne abbiamo una lunghissima serie, sono almeno una trentina, 35 tra il primo e il secondo secolo, ma sono scritti da cristiani, e allora qualcuno potrebbe avere il sospetto che sono stati manipolati. Per cui io adesso li cito, tanto per richiamarli alla memoria, ma non li leggo. Questi libri verranno poi analizzati, almeno in parte, più avanti. I libri cristiani, che adesso vi elencherò, sono stati studiati e datati. C'è da dire che su qualcuno di loro c'è qualche incertezza nelle date, ma io vi comunicherò anche le date con le loro incertezze. Vi faccio notare che gli scritti cristiani del primo e del secondo secolo che noi possediamo sono quasi tutti scritti in greco, in lingua greca. I libri cristiani sono il Vangelo secondo Matteo, che viene collocato attorno al 45 nella prima edizione e attorno all'80 nella seconda edizione, il Vangelo secondo Marco, che è attorno agli anni 50-65, il Vangelo secondo Luca, che è negli anni 55-62, c'è qualcuno che lo colloca anche dopo il 70, ma oggi sta perdendo terreno questa ipotesi. Abbiamo 13 lettere di Paolo, scritte tra il 50 e il 67, quando Paolo più o meno è morto. Abbiamo una lettera di Giacomo, scritta tra il 50 e il 58. Abbiamo un libro di Luca intitolato Atti di Apostoli, scritto tra il 61 e il 63. Una prima lettera di Pietro tra il 60 e il 65 più o meno. Una lettera agli Ebrei, che è stata scritta da qualche discepolo di Paolo verso gli anni 60-67. Poi abbiamo il primo libro cristiano non accettato fra i libri ufficiali del cristianesimo, perché l'elenco di quei libri che vi ho fatto finora è formato tutto da libri che poi sono entrati in quello che i cristiani hanno chiamato il Nuovo Testamento, in contrapposizione all'Antico Testamento degli Ebrei. Invece, tra gli anni 70 e 80, abbiamo un libro intitolato Didache, che vuol dire dottrina, sottinteso dei 12 apostoli, che presenta il cristianesimo in modo molto breve e che non fu accolto tra i libri ufficiali del cristianesimo, probabilmente perché sapevano che l'autore, pur presentando la dottrina degli apostoli, non era un apostolo, non aveva la garanzia di essere un testimone oculare. Poi ancora abbiamo, ma sempre libri accolti nel Nuovo Testamento, la seconda lettera di Pietro degli anni 70-80, una lettera di Giuda, stessa data. Poi abbiamo gli scritti di Giovanni. Giovanni, secondo le interpretazioni migliori, scrive tra l'80 e il 90, e abbiamo un Vangelo, il quarto Vangelo cosiddetto, tre lettere e poi la famosa Apocalisse. Questi sono tutti libri cristiani entrati nel Nuovo Testamento, eccetto, come dicevo, la Didache. E finalmente arriviamo verso gli anni 93-94 al primo libro non cristiano che parla di Gesù e dei cristiani. Questo libro è intitolato Le Antichità Giudaiche e ha come autore un ebreo di nome Giuseppe Flavio. Se qualcuno conosce un po' la storia antica dovrebbe meravigliarsi, perché Giuseppe è un nome ebreo, ma Flavio è un nome romano. E come mai costui si chiama così? Questo signore, Giuseppe, è nato più o meno verso il 37 d.C. ed è morto nel 110 d.C., si capisce, era un sacerdote ebreo ed era diventato governatore di una città della Galilea del nord della Palestina di nome Iotapata. Quando nel 66 d.C. i romani hanno deciso di distruggere questa turbolenta nazione ebraica, sono entrati dalla Siria, sono arrivati in Galilea. Giuseppe ha fronteggiato per un momento solo le forze romane, ma le forze romane erano troppo superiori e quindi si è arreso e fu preso prigioniero assieme a tanti altri. Si presenta davanti al generale della guerra, che comandava la guerra dei romani, che era Vespasiano, e così su due piedi gli dice: il mio Dio mi fa sapere che tu e tuo figlio sarete imperatori. La cosa è stata presa un po' per ridere, come una forma di captatio benevolentiae, si dice, cioè come per ringraziarsi o sviolinarsi il generale, e Giuseppe fu lasciato in carcere. Poi la guerra si è trasportata a Gerusalemme, Vespasiano ha cinto d'assedio Gerusalemme, poi nel 67, quando è morto l'imperatore Nerone, le truppe dell'Oriente hanno proclamato imperatore Vespasiano. E Giuseppe dal carcere dice, te l'avevo detto, no? Non solo, ma poi toccherà anche a tuo figlio Tito. A questo punto, come segno di ringraziamento e di benevolenza, Giuseppe è stato liberato dal carcere, anche perché Giuseppe serviva come interprete presso gli ebrei. Lui parlava ebraico, ovviamente parlava perfettamente il greco e forse anche il latino, quindi Tito, che poi è diventato generale al posto del padre e ha guidato gli eserciti romani alla distruzione di Gerusalemme, aveva bisogno di un segretario interprete e ha preso Giuseppe, e Giuseppe per tutta risposta ha preso il nome di Flavio, ecco perché si chiama Giuseppe Flavio. Aveva mire di storico, diventato segretario dell'imperatore, del futuro imperatore Tito, ha pensato di sviolinarselo per bene, e tant'è vero che Tito se l'è portato con sé a Roma. Quando però Gerusalemme è stata distrutta, Giuseppe è diventato l'interprete per commerciare, per contrattare la vendita degli schiavi ebrei. Per questo anche oggi gli ebrei lo vedono un po' come il fumo negli occhi, come un traditore, no? Poi Tito se l'è portato a Roma. Giuseppe sperava di diventare lo storico dell'impero, ma evidentemente a Roma qualcosa non ha funzionato, e così l'hanno messo in disparte. Gli hanno dato una buona pensione, ma l'hanno messo in disparte, e lui ha scritto le antichità giudaiche che ho già citato, e poi la guerra giudaica, cioè il racconto delle operazioni militari fatte fra il 66 e il 72 d.C. da parte dei romani. Ora, di lui, di questo Giuseppe Flavio, è giunto a noi un documento che si trova nelle antichità giudaiche e è passato alla storia con il nome di, con il titolo di Testimonium Flavianum. Si trova nel 18° libro delle antichità giudaiche. Le antichità giudaiche hanno 20 libri, ai paragrafi 63 e 64. È citato anche da Eusebio di Cesarea, è citato da un vescovo cristiano di nome Agapio, eccetera. Ora, questo documento era giunto a noi soltanto in edizioni greche, in testi greci, e però sembrava decisamente che questi testi fossero stati manipolati da monaci cristiani, perché i monaci, che lungo i secoli hanno copiato tanti manoscritti a fin di bene, a volte aggiungevano delle frasi che non erano nel testo, oppure toglievano frasi dal testo per evitare scandalo dei lettori. Per cui nei secoli molti studiosi avevano contestato l'autenticità di certe frasi di questo documento. Poi abbiamo trovato, hanno trovato, io no, certo, ma hanno trovato delle traduzioni in lingua paleoslava, ma anche queste conservavano queste, chiamiamole, aggiunte. E finalmente, nel 1971, uno studioso ebreo, un certo Shlomo Dines, ha scoperto un documento arabo, una storia universale scritta da un vescovo cristiano nel X secolo d.C. in lingua araba, e ha scoperto in questa storia universale una traduzione in arabo di quel testo greco di Giuseppe Flavio. Conclusione, per farla breve, in tutte queste discussioni oggi forse abbiamo il testo come l'ha scritto Giuseppe, cioè liberato da alcune aggiunte, ma contrariamente a quello che si pensava prima sono molto poche, fatte da mano cristiana. E allora ecco il testo, di importanza notevole perché è il primo documento che parla di cristiani e di Gesù, ma scritto da un autore non cristiano, quindi diremmo non sospetto, ma ve lo leggo. Ci fu verso questo tempo, e Giuseppe Flavio sta parlando del 30 d.C., Gesù, uomo sapiente, e i manoscritti greci aggiungevano, seppur bisogna chiamarlo uomo. È chiaro che questa era un'aggiunta di un monaco, perché non si capisce come mai il vescovo Agapio, cristiano, salti la frase seppur bisogna chiamarlo uomo, se il testo originale l'aveva scritta. È più comprensibile che il monaco l'aggiunga, perché il monaco sa che Gesù è Dio, allora introduce seppur bisogna chiamarlo uomo. E la sua condotta era buona ed era stimato per la sua virtù, e attirò a sé molti giudei e anche molti greci. Pilato lo condannò ad essere crocifisso e a morire, ma non cessarono di amarlo coloro che da principio lo avevano amato. Essi raccontarono che era apparso loro 3 giorni dopo la sua crocifissione e che era vivo. Notate, Giuseppe Flavio non dice Gesù è risorto, ma dice essi raccontarono che era risorto. Forse perciò era il Cristo. Notate questo ebreo che mette il sospetto, forse era il Cristo. I manoscritti greci non hanno questo forse, hanno costui era il Cristo. Ora non si capisce perché un monaco cristiano come Agapio, vescovo, aggiunga un forse se il testo originale non ce l'aveva. È più facile che il monaco cristiano tolga il forse che non il vescovo lo aggiunga, per cui sembra chiaro che il testo originario avesse forse era il Cristo, di cui i profeti hanno raccontato tante meraviglie. Ecco il documento. Molto interessante, molto bello, ci dice in fondo le cose che sappiamo già. Le sappiamo dai Vangeli, però è una conferma non sospetta di quanto dicono i Vangeli. Poi, sempre nell'elenco dei nostri libri del primo secolo, abbiamo una prima lettera di Clemente, vescovo di Roma, indirizzata ai cristiani di Corinto. E con ciò si esauriscono i documenti del primo secolo d.C. Arriviamo ora ai documenti del secondo secolo d.C. e abbiamo, prima di tutto, una lettera di Barnaba in greco, scritta forse verso i primi del secondo secolo. Poi abbiamo 7 lettere di Ignazio di Antiochia, sempre in greco, e anche questo Ignazio è un cristiano, come pure il vescovo, il testo di Barnaba che abbiamo ascoltato prima. E finalmente arriviamo al primo documento in lingua latina che parla dei cristiani, scritto da un non cristiano, e cioè lo storico Tacito ha scritto in latino gli Annales, cioè tutto l'elenco, tutta la storia della dell'impero romano, partendo da Augusto, cioè dal 16 dopo Cristo, avanti Cristo, fino al 68 dopo Cristo. E racconta, mentre descrive le vicende di Nerone, racconta di un famoso incendio di Roma. Nel 64 era scoppiato un incendio a Roma. Era corsa addirittura voce che l'imperatore stesso avesse ordinato di appiccare l'incendio, perché l'imperatore si sentiva nuovo Omero e voleva cantare l'incendio di quella nuova Troia che era Roma. Non si sa bene se ciò sia avvenuto, ma una cosa è sicura, che i pompieri hanno tardato 2 ore circa ad arrivare sul posto. È corsa anche lì voce che l'imperatore avesse ordinato: lasciate bruciare, così facciamo tutto nuovo, perché Nerone aveva un po' il mal della pietra, voleva fare bella Roma, e il centro di Roma era formato di palazzi anche di 6-7 piani, ma tutti formati di canne impastate con fango, e quindi ogni tanto crollavano giù, e allora meno male che si è incendiato tutto, così facciamo tutto bello. E qualcuno appunto aveva detto: Nerone ha dato ordine di bruciare Roma. Capite che questo ha suscitato tanta arrabbiatura nei confronti di Nerone, e Tacito scrive così: per mettere fine alla diceria, Nerone fece passare per colpevoli e sottopose a pene raffinatissime coloro che la plebaglia, detestandoli per le loro vergognose azioni, denominava cristiani. Ecco il nome. L'autore di questo nome, di questa denominazione, di questa, chiamiamola noi, ma traduco così un po' malamente, religione, Cristo, era stato messo a morte sotto l'impero di Tiberio per ordine del procuratore Ponzio Pilato. Ci dice delle cose che noi sappiamo già. E pur essendo stata momentaneamente repressa, questa pestifera superstizione ricominciava a diffondersi non solo per la Giudea, origine di quella sciagura, ma anche a Roma, dove da ogni parte confluisce e viene tenuto in onore ciò che vi è di scellerato e di vergognoso. Vedete che Tacito non è molto gentile nei confronti di Roma. Perciò in primo luogo furono arrestati coloro che confessavano. Quindi, dietro loro indicazione, una grande moltitudine fu condannata, non tanto per l'accusa di aver appiccato l'incendio, quanto per odio del genere umano. E per Tacito il genus humanum, il genere umano, è l'impero. Quindi accusa verrebbe odio all'impero. Come mai odio all'impero? Probabilmente la ragione è questa: i cristiani insegnavano l'uguaglianza di tutti gli uomini, mentre l'impero stava in piedi su una massa immensa di schiavi che veniva schiacciata, dominata da alcuni pochi sfondati capitalisti romani. E quindi già si sono accorti gli imperatori che era difficile che il cristianesimo potesse coesistere con l'impero. Ecco allora il documento di Tacito. Il documento è del 112 dopo Cristo. Sempre nello stesso anno 112 abbiamo una lettera di Plinio il Giovane all'imperatore Traiano, anch'essa scritta in latino. Plinio è il delegato, l'inviato dell'imperatore per la provincia del Ponto e della Bitinia, cioè la zona attorno al Mar Nero, a potere consolare, e scrive all'imperatore per chiedergli consigli su come deve comportarsi nei confronti dei cristiani. La lettera è piuttosto lunga, vi leggo solo alcuni brani. Plinio dice: non ho mai preso parte ad istruttorie a carico dei cristiani, perciò non so che cosa si sia soliti fare, o punire o inquisire, ed entro quali limiti. Per ora, nei confronti di coloro che venivano deferiti al mio giudizio come cristiani, ho seguito questa procedura. Ho chiesto anzitutto se fossero cristiani. Se confessavano, li ho interrogati una seconda e una terza volta, minacciandoli di morte. Se perseveravano, ordinai che fossero condotti al patibolo. Poi salta, altri denunciati da un delatore dissero di essere stati cristiani e subito dopo negarono. Dissero di esserlo stati in passato, ma di aver cessato di esserlo, chi da 3 anni, chi da un numero di anni ancora maggiore, alcuni addirittura da 20 anni, dunque 112 meno 20 farebbe 92. Anche tutti costoro venerarono la tua immagine e quella degli dèi e maledissero Cristo. Qui ormai Cristo, che era l'attributo, l'unto di Dio, diventa già nome proprio, vuol dire che i romani hanno identificato Gesù e Cristo, non capivano chiaro tutto questo. Dicevano inoltre che la loro colpa o il loro errore consisteva nel fatto di essere soliti riunirsi all'alba in un giorno fisso, presumibilmente sarà la domenica, e intonare a cori alterni un inno in onore di Cristo come se fosse un Dio, e di impegnarsi con giuramento a non commettere qualche delitto, a non commettere furti, frodi, adulteri, a non venir meno alla parola data, eccetera. E poi finisce: mi è parso che la questione meritasse di essere sottoposta al tuo giudizio, soprattutto per il numero di quelli che sono coinvolti in questo pericolo, molte persone di ogni età, di ogni ceto sociale, addirittura di ambo i sessi, sono trascinati in questo pericolo e ancora altre lo saranno. E non solo per la città, ma anche per i sobborghi e per le campagne si è esteso il contagio di questa deleteria superstizione. Tuttavia, sentite questo bel giudizio, mi pare che si possa ancora bloccarla e ricondurla nelle norme. Con buona pace di Plinio e dell'Impero Romano, il cristianesimo c'è ancora e l'Impero Romano non c'è più. L'imperatore Traiano, sempre in quell'anno, risponde a Plinio in questa maniera: hai fatto bene, ma poi dice: non li si deve ricercare i cristiani. Nel caso in cui vengano denunciati e riconosciuti colpevoli, devono essere puniti, in modo però che colui che ha negato di essere cristiano, e lo avrà dimostrato coi fatti, cioè rivolgendo suppliche ai nostri dèi, sebbene in sospetto in passato, ottenga il perdono per il suo ravvedimento. Come si può vedere, l'Impero Romano non ha saputo bene all'inizio che pesci pigliare di fronte a questa religione nuova. È una situazione che non sa come gestire, perché già questo parere dell'imperatore Traiano è un editto, quindi fa norma, ha valore di legge, è stato criticato da un avvocato romano cristiano, cioè Tertulliano, romano come cultura, anche se lui era originario dell'Africa di Cartagine. Ora Tertulliano, avvocato, dice: ma che strano giudizio quello dell'imperatore Traiano. Perché? Ma o noi siamo colpevoli o noi siamo innocenti. Se siamo colpevoli, non si capisce perché l'imperatore dica non li si deve ricercare. Un giudice, un'autorità, ha il dovere di ricercare i colpevoli. Se invece siamo innocenti, non si capisce perché l'imperatore dica che dobbiamo essere puniti. Non si può punire un innocente. Questo vi dice il disagio dell'impero romano, che non sapeva gestire questa situazione nuova. Poi, nel III-IV secolo, si assisterà alla decisione degli imperatori di far fuori i cristiani perché cristiani, in quanto ormai si sono convinti che il cristianesimo non permette lo sviluppo dell'impero romano. O crolla il cristianesimo o crolla l'impero. Gli imperatori hanno deciso: facciamo crollare il cristianesimo. Non ci sono riusciti, anche perché le persecuzioni hanno portato un'ondata di simpatia nei confronti dei cristiani e così molti in più si sono convertiti al cristianesimo. Ma tornando alla nostra storia, negli anni 120 Un altro storico romano, Svetonio, parla dei cristiani. Nelle Vite dei Cesari, quando racconta la vita di Claudio, dice che l'imperatore espulse da Roma i giudei diventati per istigazione di Cresto una continua causa di disordini. Probabilmente qui non era Cresto, ma da leggere Cristo, solo che per un gioco di parole in greco Christos vuol dire unto e Crestos vuol dire ottimo. Ma ai tempi di Svetonio sia Christos unto sia Crestos si pronunciavano alla stessa maniera, perché per chi sa greco Christos è scritto con la iota Christos, invece Crestos è scritto con la eta, ma in quei tempi la eta si leggeva i e quindi pronunciavano entrambe le pronunce erano Christos. Ora è più facile che Svetonio interpreti che il fondatore del cristianesimo si chiami Cresto, cioè ottimo, che non unto. Lui non ebreo non capiva cosa volesse dire unto e quindi lo fa diventare ottimo, cioè Christos, ed ecco la parola Cresto. Ma è chiaro che si parla di Gesù. Ancora, nella vita di Nerone racconta che l'imperatore sottopose a supplizi i cristiani, razza di uomini di una superstizione nuova e malefica. Poi abbiamo ancora alcuni documenti cristiani, per esempio una apologia, una difesa dei cristiani fatta da un avvocato Quadrato all'imperatore Adriano. Abbiamo Il pastore di un certo Hermas, un'opera, un libro intitolato Il pastore, che è una raccolta di visioni, di scritti, di visioni simboliche verso gli anni 150. E poi abbiamo però una lettera dell'imperatore Adriano al proconsole di Asia Minucio Fundano, e si parla di persecuzioni, di giudizi popolari, di esecuzioni popolari fatte contro i cristiani. E l'imperatore da norme dice: se gli abitanti del luogo possono addurre prove valide contro i cristiani in modo da poterle sostenere davanti al tribunale, ricorrano unicamente a questo mezzo e non mai a clamori e a esecuzioni sommarie. Se chi accusa dimostra che i cristiani hanno infranto le leggi, determina tu la pena secondo la gravità, ma se colui che denuncia lo trovi mosso da intenzioni calunniose, puniscilo esemplarmente. Questo è il principio dell'impero romano, di non accettare esecuzioni popolari o processi popolari. E poi abbiamo un autore cristiano di nome Giustino, nativo di Nablus in Samaria, ma lui non è ebreo, che ha scritto due difese, due apologie per i cristiani, e poi ha scritto un dibattito, il resoconto di un dialogo fatto tra lui e il rabbino ebreo Trifone. Questo libro ha passato alla storia come il dialogo con Trifone. E Giustino, cristiano, mette in bocca al suo interlocutore Trifone il seguente giudizio su Gesù. Gesù il Galileo è il fondatore di una setta empia e avversa alla legge di Mosè. Noi l'abbiamo crocifisso. I suoi discepoli trafugarono di notte il suo cadavere dal sepolcro e ingannarono gli uomini dicendo che era risorto dai morti e salito al cielo. Ora questo giudizio di furto di cadavere ha varcato i millenni e ancora oggi gli studiosi ebrei, parecchi studiosi ebrei, sostengono questa tesi del furto di cadavere. Poi abbiamo ancora tra i documenti un'altra difesa all'imperatore Marco Aurelio, scritta da un certo Atenagora, da un avvocato cristiano Atenagora. E infine, sempre nel secondo secolo, abbiamo un filosofo Celso, ebreo, che scrive un libro intitolato Discorso veritiero. In questo libro afferma che Gesù era soltanto uomo e dice che le profezie dell'Antico Testamento si possono adattare, applicare a migliaia di altre persone meglio che a Gesù. E così abbiamo fatto il quadro di questi documenti, ma ho volutamente saltato tutta ancora un'altra serie di documenti di data incerta, che sono i cosiddetti documenti apocrifi del Nuovo Testamento. Cosa vuol dire apocrifi? Di per sé la parola apocrifo vuol dire nascosto. Sono dei libri che riferiscono delle idee nascoste, delle idee segrete di Gesù. Libri che, dicevano, erano tramandati per vie segrete, per vie sotterranee. Ecco perché dunque apocrifi. Sono libri falsamente attribuiti agli apostoli, ma non accettati dalle chiese cristiane. Siccome sono del secondo secolo, a volte qualcuno anche del terzo secolo, per dare credito a certe loro idee, le attribuivano a apostoli del passato. E dicevano, sai, per esempio, Pietro, in segreto, ecco la parola apocrifo, ha scritto questo Vangelo, ma non l'ha pubblicato. Scusa, e perché non l'ha pubblicato? Perché non voleva far fare brutta figura al suo servo, al suo segretario Marco. Marco ha scritto un Vangelo e allora Pietro lo ha corretto, ma non l'ha voluto, non ha voluto fargli fare brutta figura. E allora in segreto l'ha passato a mio nonno l'ha passato a mio padre l'ha passato a me ed ecco qua, io te lo pubblico. Qua sotto gatta ci cova, direbbe qualcuno. E allora hanno preferito scartare questi libri. Vi do un po' l'elenco di questi libri apocrifi. Per esempio c'è un Vangelo secondo gli ebrei, un Vangelo dei Nazorei, un Vangelo degli Ebioniti, un Vangelo degli Egiziani, un Vangelo di Pietro, il Proto-Vangelo di Giacomo, cioè il primo Vangelo scritto da Giacomo, un Vangelo di Tommaso, gli Atti di Pilato, eccetera. Cioè abbiamo parecchi di questi Vangeli che non sono stati accolti tra i libri ufficiali del cristianesimo. Però esistono questi documenti, sono pubblicati nelle edizioni che si intitolano gli Apocrifi del Nuovo Testamento. E infine, ultima serie di libri, più tardi, ma che ci riportano a periodi più arretrati, sono i Talmud. Cosa sono i Talmud? Sono due libri, uno fatto a Gerusalemme, per cui si chiama il Talmud di Gerusalemme, e uno fatto in Babilonia. Sono i resoconti delle riunioni, dei congressi, noi diremmo, che i rabbini facevano una volta all'anno o a Gerusalemme o a Babilonia. E lì raccoglievano i verbali, e questi verbali riportano tante informazioni, ma che risalgono a secoli precedenti, a tradizioni, a usi e costumi precedenti. Per cui è vero che i Talmud sono del IV, V, anche forse VI secolo, però il contenuto è molto più antico. Ora, nel Talmud babilonese si parla abbastanza di Gesù. Per esempio, si dice in un documento: ecco che cosa è stato trasmesso. Il giorno di preparazione di Pasqua fu appeso Gesù di Nazareth. Un araldo aveva camminato 40 giorni davanti a lui dicendo: deve essere lapidato perché ha praticato la magia e ha sviato e sedotto Israele. Chiunque sa qualcosa su di lui, a sua discolpa venga a difenderlo. Ma non fu trovata alcuna difesa e fu appeso il giorno di preparazione della Pasqua. Fu crocifisso, appeso vuol dire quello, il giorno di preparazione della Pasqua. E così ci sono ancora altre citazioni. Tra gli altri si dice che Gesù è nato da Maria e da un soldato romano di passaggio. Questo soldato è chiamato Pantera o Pandora o Pandera, e perciò anche il Talmud viene ad ammettere che Giuseppe non è il padre di Gesù, e poi si dicono altre informazioni su Gesù. E perciò siamo in grado adesso di tirare delle conclusioni. Certo, in storia bisogna stare attenti a tirare soltanto le conclusioni minime, cioè a far parlare i documenti al minimo, e il minimo che si può dire è questo. Primo, è esistito un uomo di nome Gesù di Nazareth, morto giustiziato sotto Ponzio Pilato attorno al 30 d.C. in Palestina, durante l'impero di Tiberio. Qualcuno dirà: ma Gesù non è morto nel 33? Esattamente, non sappiamo dare una data precisa della morte di Gesù. Le date tra il 28 e il 34 vanno tutte bene. Allora noi prendiamo la media, cioè prendiamo l'anno 30, e non se ne parli più. Gesù è morto attorno al 30. I suoi seguaci, secondo dato, affermano di aver visto Gesù nuovamente vivo e riconoscono in lui il Cristo. Terzo dato, Gesù è indicato come il fondatore della setta cristiana. Quarto, i cristiani si diffondono assai rapidamente in tutto l'impero e anche a Roma. Quinto, sono odiati e perseguitati. Ecco, questo è il minimo che si può dire. E allora vorrei concludere con una considerazione. Perché interessarci ancora oggi di quest'uomo? E la risposta sembra essere ovvia, perché si presenta come il portavoce di Dio, si presenta, e mi ricollego alla prima conversazione, come colui che porta una risposta di Dio al problema del senso della vita. Ora, dato che la posta in gioco, cioè la nostra vita, è grossa, merita di vedere se costui è credibile o no. Ecco la ragione delle argomentazioni, dei discorsi che seguiranno. Credo che per questa volta possa essere sufficiente e termino ringraziandovi della cortese attenzione e rimandandovi, aspettandovi per le prossime conversazioni. Grazie.